La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. 16:32 primi 9 secondi. Anche oggi purtroppo la regia hanno fatto un colpo di stato. Hanno messo i pro. No, sto scherzando. Eccoci qua, grazie dell'ascolto in diretta in podcast. È una giornata, non ve lo devo aggiungere, da stanotte tragica, per seguire gli sviluppi della strage ieri avvenuta a Nizza. Però mi sono detto, proprio per questo, siccome giustamente stiamo tambureggiando come tutti su quel tema, dandovi come ovvio le informazioni man mano che emergono e sentendo l'opinione degli esperti, sentendo le vostre, ho deciso però di non trascurare nella puntata di oggi un altro argomento che altrimenti sarebbe in cima alla gerarchia delle notizie di oggi, perché si tratta di un'operazione svolta dai magistrati e dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dei ROS, che ha una rilevanza, da quello che abbiamo capito e agli occhi di chi segue le vicende, di una cosa che si chiama 'Ndrangheta, che è della massima importanza. Mentre dei coinvolgimenti tra politica e cupola di Cosa Nostra, della mafia, da decenni sappiamo molto di più, della 'Ndrangheta, che pure ha una storia lunghissima e che continua ad avere una presa sulle vicende politico-amministrative economiche non solo della Calabria, ma in maniera crescente in moltissime altre regioni italiane, a cominciare dal nord più avanzato dove ci sono più soldi, malgrado le tantissime indagini che negli anni si sono accumulate sulla cointeressenza tra esponenti della pubblica amministrazione, politici locali e così via, è sempre finora mancato un'indagine che entrasse nella cupola vera, prendendo questa come un'espressione impropria, perché le organizzazioni di malavita, cioè Cosa Nostra e 'Ndrangheta, hanno delle differenze anche storico-organizzative. Eppure, nelle primissime ore della giornata sono stati oggi eseguiti degli ordini di custodia cautelare e in mattinata questa indagine, il cui nome è l'operazione Mamma Santissima, è stata presentata in una conferenza stampa dal procuratore Federico Cafiero De Rao e dal comandante generale dei ROS, dei Carabinieri Generale Governale. Anzi, abbiamo un file, sentiamo innanzitutto le loro parole. 'Ndrangheta è forte, lo abbiamo sempre detto, perché può fare affidamento sull'economia, può fare affidamento sulla politica. Ecco, ma la infiltra non acquisendo uomini dalla politica, ma formando uomini per la politica. Naturalmente a livello indiziario, gravemente indiziario, che esiste una componente riservata, che è quella costituita da alcuni uomini protagonisti anche della vita economica e politica di questa città. È un'indagine che segna indiscutibilmente uno spartiacque, come il fenomeno deve essere letto, come il fenomeno deve essere esaminato, non solo sul piano militare, cioè sul piano delle operazioni di polizia giudiziaria. È un fenomeno particolarmente delicato che si evidenzia, quello di una infiltrazione non solo negli organi locali che governano le comunità, ma addirittura quella di una progressiva infiltrazione degli organi costituzionali, che in una repubblica democratica come la nostra è assolutamente inammissibile. Ecco, la prima voce era quella del procuratore Federico Cafiero De Rao, e l'indagine, oltre che sotto il suo indirizzo, è avvenuta con il coordinamento del PM Lombardo, della DDA, quindi dell'antimafia, della direzione regionale antimafia in Calabria, mentre la seconda voce che avete sentito è appunto quella del generale di brigata, il generale governale, comandante dei ROS. Avete sentito la precisione chirurgica con la quale il generale governale ha parlato di una distinzione, finalmente la svolta, dice, perché non siamo più solo all'identificazione di connivenze, sostegni, adesioni dirette alle cosche di politici locali. Siamo all'identificazione del livello superiore, cioè di politici formati per la politica, dice addirittura il procuratore De Rao, che infiltrano organi costituzionali, cioè che sono membri del Parlamento e del governo. Andiamo a vedere i nomi intanto che ci sono noti. Perché i 5 ordini di custodia cautelare in questa inchiesta condotta dalla Procura di Reggio Calabria e dai ROS riguardano l'ex deputato Prima Repubblica del Partito Socialdemocratico Paolo Romeo, che è già in carcere, l'ex sia consigliere regionale che sottosegretario in governo nazionale del centrodestra Alberto Sarra, poi c'è l'avvocato Giorgio De Stefano, un dipendente, ex dipendente della regione Francesco Chirico e un mandato di custodia cautelare che riguarda un parlamentare in carica in questa legislatura, il senatore di Gal Antonio Caridi, eletto in questo Parlamento all'inizio con le liste del PDL, poi passato per NCD, adesso nel gruppo delle autonomie Antonio Caridi. E naturalmente per l'esecuzione di questa custodia cautelare bisognerà attendere, secondo le norme vigenti, il voto del Parlamento. Se andate a vedere sui siti troverete testi di alcune intercettazioni in cui si parla esplicitamente di cifre di 300-400 mila euro per prendere voti. I nomi dei politici interessati da queste custodie cautelari sono nomi che in realtà rimbalzano in indagini su cosche della 'Ndrangheta in tutta Italia, in Lombardia, in Liguria, eccetera, da molti anni, addirittura dalla fine degli anni 90, e sono numerosissime le indagini su diverse cosche trapiantate ed esodate nella parte più ricca del paese, Andrina della 'Ndrangheta, in cui i collaboratori di giustizia facevano i nomi di questi politici. La differenza è che adesso i magistrati e i ROS ritengono di avere delle prove tali da poter varcare questo confine, cioè tra il far rimanere solo negli atti processuali i nomi dei politici nazionali e invece questa volta chiederne l'arresto. Mi limito a dirvi solo una cosa dell'ex sottosegretario del centrodestra Alberto Sarra. Vi dico solo, ecco, il suo curriculum penale: 1995 denunciato per millantato credito, violenza o minaccia e minaccia pubblico ufficiale, usurpazione di titoli e di onore. Nel 97 indagato per abuso d'ufficio, poi prosciolto nel 2000. Nel 2004 riceve un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa, violenza, minaccia a corpo politico, amministrativo e giudiziario. Nel 2005 denunciato per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'inchiesta Poseidone, una delle più grandi indagini poi andata a processo della 'Ndrangheta negli ultimi 10 anni. Poi rifinisce un'altra volta sotto inchiesta per mafia nell'ambito di un'indagine che però viene archiviata dall'ex procuratore di Reggio Giuseppe Pignatone, che oggi è il capo della Procura di Roma. Ecco, con un simile quadro, scrivevano i magistrati di Milano anni fa, ci si aspetterebbe che un personaggio come Alberto Sarra avrebbe smesso, anzi mai intrapreso una carriera nella politica, tanto più a livello nazionale, e aggiungevano amaramente i magistrati milanesi in quell'atto giudiziario, evidentemente si tratta da parte nostra di un'aspettativa ingenua. Ecco, abbiamo un ospite con noi, un ospite che in realtà nella vita fa lo scrittore, però fa lo scrittore appassionato della sua terra e che innumerevole volte, scrivendo su diverse testate, unendo la maestria della sua penna a una grande passione civile, si è occupato proprio della 'Ndrangheta, delle collusioni e degli intrecci con la pubblica amministrazione e con la politica nella sua terra ma in tutta Italia. Domenico Gangemi, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, innanzitutto Gangemi, l'impressione che ha, noi possiamo parlare solo di impressioni, però siamo abituati a dare il giusto peso e la giusta importanza ai toni che usano i magistrati e i carabinieri quando presentano le loro indagini a seguito di emissioni di custodie cautelari. Questa volta loro parlano di svolta e ci sono dei politici nazionali. Qual è la sua prima impressione? Potrebbe essere una svolta vera? Guardi, io non mi meraviglio più di nulla, perché ne sto vedendo di tutto e di più. è indubbio che ci sia, che sia la politica, ma le istituzioni in genere siano state penetrate dall''ndrangheta, perché, come diceva il procuratore De Lao, anche perché, come diceva il procuratore De Lao, lì c'è il potere e quindi c'è questa necessità dell''ndrangheta di crescere i politici. Però nel caso in specie io ci andrei anche un po' cauto. Un po' cauto. Da un lato sono certo che ci siano in giro nella mia provincia, in questa terra, dei potenti manovratori che sono in grado di indirizzare più famiglie di mafia, di 'ndrangheta, e di portarle sul loro terreno, su un terreno delinquenziale, di interessi. E questo mi convince, però continua a non convincermi l'idea che la 'ndrangheta si sia strutturata sulla forma di Cosa Nostra, con una struttura piramidale, con una vera e propria cupola, con emanazioni piramidali. Io continuo a non credere, perché vivo il territorio, vivo tra la Piana di Gioia Tauro e l'Aspromonte, e l'aria che respiro, le impressioni che colgo, non mi fanno pensare questo. Mi fanno piuttosto pensare che ci siano degli uomini potenti anche della politica che riescono a indirizzare più famiglie di 'ndrangheta nelle direzioni da loro voluto, ma questo non significa che veramente ci sia una cupola stile Cosa Nostra. Questo non riesco a crederlo, per la verità. A dire la verità, Gangemi, mi lasci dire, fino a questo momento non è mai stato dimostrato da nessuna delle grandi indagini poi finite in processo sulla 'ndrangheta in tutti questi anni. Tant'è che, anch'io l'ho detto all'inizio, quello che abbiamo le prove e quello che possiamo dire prove alla mano è che le organizzazioni sono molto diverse dal punto di vista del coordinamento centrale, cioè mai niente di simile a quello, essendo appena morto un grande, ohimè, capo della mafia, Dopolina, sì, Provenzano, era simile a ordini decisi e poi emanati per il periodo delle grandi stragi mafiose 92-93, no? È così? Sì, sì. Voglio dire, ci sono stati grandi proclami su questa scoperta sensazionale della 'ndrangheta unitaria, però in realtà prove reali ed effettive non sono mai emerse. Io credo, e continuo a credere, che non ci sia questa cupola, credo piuttosto che ci sia un ritorno alle forme arcaiche della 'ndrangheta, quando essa veniva chiamata onorata società, nel senso che militarmente non c'è un'unità delle varie famiglie che compongono il mosaico delittuoso in Calabria, ma che ci siano dei personaggi particolari che diventano i custodi delle regole, che esercitano, muovono il tentativo di assomigliare il più possibile a quella onorata società che raccoglieva il consenso della popolazione perché aveva occupato spazi liberi lasciati dallo Stato assente per lunghi anni, che per lunghi anni aveva deciso zone franche certe aree della Calabria. Lei però due volte, io la sto ascoltando come tutti i nostri ascoltatori attentamente, ha parlato di uomini potenti in grado di far convergere i voti delle 'ndrine. Ma questi uomini potenti in grado di far convergere i voti delle 'ndrine sono politici autonomi, secondo lei, o sono capi delle 'ndrine che decidono di mettersi d'accordo per poi spartirsi le opere, i soldi, eccetera, eccetera, che derivano dall'appoggio al politico esterno, per così dire? Io ho l'impressione che siano dei personaggi di grande carisma, politici come in questo caso, che abbiano le capacità loro personali di mischiarsi in questo ambiente malavitoso e di condizionare queste famiglie di 'ndrangheta, prospettando loro degli interessi che monetari solitamente, che sono comuni, che appartengono a entrambi. Cosa che rende effettivamente un po' diversa almeno la presentazione che è rimbalza dai giornali fino a questo momento. Adesso abbiamo un minuto di informazione sulle strade e poi torniamo con Domenico Gangemi, scrittore calabrese, appassionato, amante della sua terra e studioso, osservatore della 'ndrangheta, per capire da quello che possiamo immaginare i primi segni di questa, che però la magistratura e i carabinieri presentano come una vera svolta. Per la prima volta forse una cupola in cui c'è anche la politica della 'ndrangheta. La La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta per tentare di capire qualcosa di più di questa indagine sfociata in 5 pesantissimi ordini di custodia cautelare, tra cui quello di un senatore che in Parlamento, Antonio Caridi, eletto con il PDL e oggi nel gruppo GAL, e poi altri politici, ex sottosegretari, ex parlamentari, e presentata dalla magistratura, dalla direzione antimafia e dal comandante generale dei ROS come una vera e propria svolta. Pensate che, tanto per dirne una, perché ci sono già tonnellate di carte a disposizione di noi giornalisti, il nome per esempio del senatore Caridi è riportato in ricostruzioni quando i magistrati delle diverse indagini di quelli che sono diventati i più grandi processi di 'Ndrangheta negli ultimi 10 anni ottenevano verbali e deposizioni in cui il nome di Caridi regolarmente ricorreva, per esempio a farlo collaboratore di giustizia Giovan Battista Fracapane della Cosca De Stefano 12 anni fa. Ed era lo stesso Fracapane della Cosca De Stefano che faceva i nomi di quello che poi è stato uno dei presidenti della regione, Giuseppe Scopelliti, che faceva i nomi di politici del rango di Italo Falcomatà, che è il padre dell'attuale sindaco di Reggio. Ecco, il problema è che questi nomi rimanevano però a galleggiare negli atti giudiziari. Questa volta la magistratura si è risolta a procedere. La domanda che faccio a Gangemi, che resta, e mi sembra molto convincente con la sua idea, che però non siamo a un'organizzazione ancora verticistica come quella della cupola, bisognerà vedere se davvero i politici sono dentro a dare gli ordini alle 'ndrine oppure sono esterni che se ne avvalgono per fare accordi. Ma detto tutto questo, Gangemi, quanto è, domanda che ci chiedono i nostri ascoltatori, quanto è trasversale tra destra e sinistra questa contiguità secondo lei? In questi anni noi abbiamo visto coinvolto tutto l'arco costituzionale nelle varie vicende. In questo caso credo che sia coinvolto il centrodestra, sì. Ma non sono stati rari i casi in cui anche i componenti del centrosinistra siano stati coinvolti. Però se mi permette di aggiungere una cosa, certo. Io vado cauto, come le dicevo prima, anche per un altro motivo, perché fermo restando che rispetto le risultanze della magistratura, però succede in Calabria che talvolta delle inchieste strombazzate, probabilmente non sarà questo il caso, delle inchieste strombazzate che hanno fatto un grande clamore negativo in uscita, poi hanno avuto un silenzio in entrata quando si sono sgonfiate oppure sono finite a un nulla di fatto. E di questi giorni la sentenza di quasi totale assoluzione sulla multiservizi, quella partecipata del Comune di Reggio, che contribuì anche a sciogliere l'amministrazione comunale, o l'episodio della Girasole, la sindaca di Isola Capo Rizzuto, prima un'icona antimafia, poi nella polvere e poi riabilitata perché si è scoperto nel frattempo che erano state trascritte male le intercettazioni. E questo è un motivo che ci porta a usare cautela. Siamo proprio nella prima fase dell'indagine, per cui dovrebbe valere, ma troppo spesso non vale, la presunzione di innocenza o di non colpevolezza, come è il termine giuridico esatto. Per cui io non mi sento di abbattere violenta la spada della colpevolezza, perché troppo spesso ho assistito al massacro talvolta di innocenti, con grande riscontro negativo per la Calabria e un grande silenzio quando poi certe indagini sono sgonfiate o sono finite a nulla di fatto. Ecco perché invito ad andarci cauti. Ecco, ma a prescindere, giustissima la sua posizione, oltretutto sono garantista anch'io, però giustissimo, ma a prescindere da questo, nella sua esperienza e nel correre degli anni, nell'area che ha ricordato, quella in cui vive, che quindi conosce molto approfonditamente, la sensazione che ha avuto è quello di colpi a vuoto, perché c'era una strategia di contrasto che portava colpi severi alle 'ndrine della zona, oppure di una capacità di adeguamento delle 'ndrine a quella strategia di contrasto per cui alla fine non ne risentivano troppo, oppure una strategia che a volte strombazzava, appunto, l'ha detto lei, risultati che poi alla fine rimbalzavano e non ottenevano nulla. Un po' tutto di queste cose, ci sono stati casi che rientrano nelle tre categorie che ha detto. Certo, do atto anche che da un po' di decenni la giustizia si muove alla grande e se non altro ha prodotto il risultato di far capire in generale, spero che lo abbia fatto capire di più ai giovani, che delinquere, appartenere all'andrangheta conviene, perché le strade a cui porta, il bivio a cui porta è o il carcere o la morte o la tragedia, questo certamente. Ma devo anche registrare e nella mia idea traggo conforto dai numeri di un libro, documento scritto da dei giornalisti di cui ha parlato il Corriere della Sera l'altro giorno, che in Italia per esempio ci sono stati negli ultimi 24 anni 24.000 casi di rimborso per detenzione ingiusta. Detenzione, ne abbiamo parlato anche noi più volte. Siccome sono un garantista, io questi sono numeri terribili che, esatto, mi fanno pensare, e ho l'impressione che in Calabria ormai schiacciata dal pregiudizio si vada con la mano un po' più pesante rispetto al resto d'Italia, proprio perché le grava addosso il pregiudizio. Però nel contempo prendo atto di una giustizia che finalmente si muove dopo che per lungo tempo aveva deciso, come dicevo prima, zone franche, esatto, zone dove non intervenire certe aree, specialmente del Regino, l'Aspromonte, la Piana di Gioia Tauro, la Locride, e questo ha portato decenni fa a quel consenso che è della onorata società, certo, che è il male di tutti i mali. Allora, io intanto ringrazio Domenico Vangemi. Come avete visto, abbiamo tentato di essere realisti, vedremo gli sviluppi di questa indagine che però porta colpi pesanti alla politica in alto, per così dire. Vi do una notizia di aggiornamento per Nizza, perché è stato trovato dai familiari, ricoverato all'ospedale Pasteur di Nizza in gravissime condizioni, Andrea Vagnini, che era uno degli italiani di cui si avevano notizie, 53 anni, consigliere comunale di San Michele a Mondovì, uno degli italiani appunto coinvolti nella strage, mentre non si hanno ancora notizie purtroppo della moglie, Marinella Ravotti, 55 anni. Vi do gli aggiornamenti naturalmente in tutte le edizioni nostre dei GR. Continuate con la 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12.